ha già presentato presso di noi Tritolo e anche Anatomia della Battaglia alcuni anni fa. È tornato quest'autunno, ha presentato Autismi e aveva promesso già in quell'occasione che sarebbe ritornato con un libro storico, Cielo Nero, e per questo con noi questa sera abbiamo anche il piacere di avere Carlo Romeo che ci aiuterà in questa presentazione con la sua preparazione storica. Abbiamo però una sorpresa per voi. La sala che abbiamo scelto questa sera, è questa saletta piccola perché abbiamo il videoproiettore. In realtà la proiezione non ci sarà e in compenso abbiamo guadagnato la presenza di Nicole Maurmeier che leggerà alcuni passi di questo libro di Giacomo Sartori. Ecco, quindi la serata si prospetta interessante. Io ringrazio veramente l'autore di essere tornato qui da noi in biblioteca. Ricordo che la biblioteca è sempre disponibile con i suoi volumi per approfondire argomenti, tematiche, visto che questo è un contesto storico molto particolare. Noi siamo documentati e vi invitiamo a tornare e a consultare il nostro sito, il nostro catalogo. Cedo subito la parola a Benissimo, allora Carlo. parto io. Io sono contento di presentare questo romanzo di Giacomo perché è uno scrittore che conosco quasi dalle sue prime opere, non proprio all'inizio, ma insomma Tritolo, ricordo che era stato presentato proprio qui e mi aveva subito colpito per alcune caratteristiche tipiche di un narratore di quelli veri. Tritolo, per chi non lo conoscesse, è un romanzo ispirato a una tragica storia, o meglio, ispirato in maniera libera, come è giusto che sia, a una tragica storia, ovvero il cosiddetto mostro che ha imperversato a Merano, nel Meranese, qualche anno fa. E diciamo che era un monologo interiore intensissimo che aveva valenze sia proprio psicologiche, sia, almeno questa era stata la mia interpretazione, anche storiche, era un ritratto del lato oscuro della provincia. E poi abbiamo presentato Anatomia della Battaglia, un altro romanzo intensissimo legato alla figura del padre, e nel frattempo ha pubblicato tantissime altre cose e ora, come dire, ha stupito i suoi fan con un romanzo che affronta direttamente la storia. Infatti, Cielo Nero è un romanzo che fa parlare direttamente alcuni protagonisti di pagine tragiche della storia italiana. Poi chiederò a Giacomo come mai questa scelta, quali radici profonde anche del vissuto, si può dire generazionale, o meglio di quel patrimonio di grovigli, di memorie che si trasmettono da una generazione all'altra, ecco, cosa lo ha spinto a scegliere questa pagina così tragica. E, in pratica il romanzo, se si dovesse, ecco, collocarlo o farne, definirne alcune linee, parla degli ultimi giorni di Ciano. Galeazzo Ciano, imprigionato nel carcere degli Scalzi a Verona, in attesa del processo, un processo che lo vedrà condannato a morte. E diciamo, il libro è scandito con la maestria di quasi, se, diciamo che pare un film. Oltretutto, la tematica era stata già il soggetto di un film nel 62, Lizzani era stato regista, e individua in queste vicende, secondo me, una tragedia di tipo classico, cioè ci sono tutti gli elementi che toccano le corde più profonde, insomma, dell'anima umana, il rapporto padre e figlia, in questo caso Mussolini e Nedda, la moglie di Ciano, il rapporto fra Ciano ed Edda così controverso, così ambiguo, nel senso erano stati una coppia fino a quel momento abbastanza libera, una delle prime coppie di cui un pochino, nonostante il velo della propaganda, si parlava. Edda ha una personalità molto forte, come il padre, molto diciamo determinata, e Ciano vanitoso, Ciano il, come dire, il principe dei galà, delle serate in vestiti eleganti. E poi la figura di questa gente, una ragazza di 22 anni, un agente dell'SS che i tedeschi pongono accanto a Ciano, già nel periodo in Germania, per controllarlo, perché Ciano è praticamente è considerato dai tedeschi uno dei nemici, uno dei traditori. E quindi questa Frau Betz, come dire, ha un rapporto ambiguo. Da un lato è colei che deve controllarlo, colei che deve fare, come dire, deve poi avvertire, comunicare i superiori di quello che Ciano pensa, scrive, e dall'altro inaspettatamente si lega, si innamora di Ciano. Questa è una storia che veramente lascia, come dire, lascia sgomenti, perché fonde tragedia, la tragedia del 43, con aspetti, diciamo, che toccano proprio le corde più profonde. E lo stile è quello di sempre, e cioè uno stile denso, concentrato. Direi che il titolo è particolarmente ben trovato, perché l'atmosfera è molto cupa, non solo perché è ambientato in una prigione, ma anche perché la scrittura indica come uno spazio che diventa sempre più piccolo, quasi l'aria che mancasse. Sono pochissime le scene fuori dal carcere, sembra quasi un dramma che si svolga con una scena unica. E tutto parla di morte, di sfacimento, i bombardamenti, gli interrogatori dell'SS che si svolgono nel comando poco più in là, questa neve che cade, che per un attimo, come dire, attutisce tutto, sembra così voglia posare una coltre per tornare indietro. Eppure la storia va avanti proprio con un meccanismo tale che fa presagire la fine. E nonostante questo, il libro si tiene ben distante, diciamo, dalla descrizione di, non so, scene raccapriccianti. Sarebbe stato facile fare riferimento alla famosa scena, una delle poche di cui abbiamo documentazione filmica, cioè la fucilazione a Verona, in cui Ciano, in un ultimo impeto di orgoglio, perché Ciano, che aveva condotto la sua vita sempre con un'alternanza di vigliaccheria, o meglio timidezza nei confronti dei potenti, e poi desiderio di invece apparire indipendente, ma forse di questo ne parleremo dopo, ebbene muore con la dignità, vuole guardare il plotone. I condannati sono stati legati alla sedia con la schiena verso il plotone per confermare, rafforzare questa immagine di traditori, e Ciano, come mostra la sequenza, fa di tutto proprio per girare la testa. Bene, io comincerei subito con una lettura per calarci nell'atmosfera. Felicitas vorrebbe potergli dire che ora spera di convincere il suo superiore che non è opportuno ucciderlo. Forse il generale cambierà davvero idea, forse riuscirà a sua volta a persuadere i grandi capi a Berlino. Le sembrava un ribaltamento impossibile, adesso invece comincia a crederci. Ora il suo superiore comincia a pensare che Edda può avere un'influenza nefasta sul padre, che la priorità sia impedirle di nuocere. che nell'immediato il vero pericolo sia da Mussolini, non lui. E questo è il risultato della sua azione. È poco, ma nello stesso tempo è moltissimo. È già un piccolo appiglio al quale possono aggrapparsi, un principio di speranza. Smetta di pensare al Duce, pensi a lei, dice. Ciano la guarda come se lo avesse insultato. Nel giro di qualche secondo il suo collo diventa viola. Tu te ne freghi se mi fa ammazzare o meno, ma io no, ringhia. Non è vero, penso solo a questo, mormora lei. Quello che interessa a te è fare bene il tuo mestiere, detto altrimenti sovrintendere alla mia eliminazione, dice lui, imitando il suo accento tedesco. Con i tuoi occhietti blu e il tuo faccino d'angioletto non pensi che a prodigarti che per il pazzo furioso che ti governa. Sei stata tirata su per questo, come si ammaestrano i cani ad azzannare. Vorrebbe dirgli che è solo per aiutarlo che ha deciso di restare a Verona ancora qualche settimana, per non rimanere con l'impressione di non aver fatto per lui tutto quello che era in suo potere. Vorrebbe dirgli che è stata una scelta difficile, per un sacco di ragioni. Una decisione che la fa stare molto male. Prepara una frase, poi l'altra. Dalla sua bocca non esce però alcun suono. Si accorge poi che le parole fanno pressione dentro di lei, come una folla che si spintona verso un'uscita di sicurezza. Vogliono sgusciare fuori, ma non sono parole, sono singhiozzi. Piange. Se piangi mi deludi, dice Ciano, immobilizzandosi di scatto. Il comandante Betz non può piangiucchiare come una ragazzina, le grida. Felicitas è d'accordo con lui. È da molto tempo che non piange più. Non potrebbe portare a termine le difficili missioni che le affidano se non avesse imparato a padroneggiare alla perfezione le proprie emozioni. Non avrebbe fatto tutta la strada che ha fatto in pochissimo tempo, saltando le tappe intermedie. Una marea la trascina però via. Una corrente con la forza di un fiume gonfio delle piogge torrenziali di novembre. Vede sfilare le rive, con il loro rassicurante aspetto di solidità, però non riesce ad aggrapparsi. Gli alberi e gli arbusti sfilano veloci, troppo veloci. Non bisogna piangere, ripete Ciano. Anche la sua voce è scivolata altrove. Ha perso la propria salda base di appoggio. È quasi una supplica. Schiude le labbra come per aggiungere qualcosa, ma già piange. Fin dall'infanzia non può vedere piangere una persona che gli avvicina senza commuoversi. Glielo ha confidato lui stesso. E adesso piange per lei, con lei. Piange. Si stringono una contro l'altro e piangono. Come potrebbero piangere due bambini vittime di un incidente, prima che qualcuno si occupi di loro. Felicitas vorrebbe smettere. Sente che se non smette subito il seguito sarà ancora più difficile. Si dice che deve riuscire a riprendere in mano le redini dei propri stati d'animo. Deve ritrovare il suo leggendario sangue freddo. Piange però ancora di più. Piange la sua immensa fatica, tutte le sue paure. Non le importa che i due colossi biondi la vedano. Non le importa che da un momento all'altro possa arrivare la guardia Pellegrinotti. Anche Ciano singhiozza in modo sempre più convulso. Non avrei mai potuto immaginare un epilogo del genere, dice. Non recita più. La sua vanità è stata riassorbita dalle rughe ormai molto marcate del viso. La vacuità è svaporata nell'aria calda e pesante della cella. È questa capacità inaspettata a essere autentico, che la soggioga ogni volta. Dentro di lei scatena una vertigine di caduta nel vuoto. Chiudi gli occhi e non pensa più a nulla. Prima di dare la parola all'autore, volevo fare questa osservazione. È una prosa che punta molto alle sensazioni, ai sensi, come, e questa credo sia una caratteristica tua. Ed è difficilissimo farlo con personaggi storici, nel senso che in questo libro viene fuori, pur nel chiuso di una celletta, della cella 27 del carcere degli Scalzi, quella che è stata la personalità di Ciano, che è una delle più controverse, più strane, più difficili del regime. Diciamo, la caratteristica di Ciano è stata quella di essere all'inizio un figlio di papà, figlio del famoso il Costanzo Ciano, l'eroe della prima guerra mondiale, più volte ministro, addirittura un ministro che sapeva imporsi a Mussolini stesso in certe cose. Quindi Ciano, come dire, ha condotto la sua giovinezza come un figlio di papà che cerca continuamente di affermare la propria capacità. Questo mostra anche l'ambivalenza del suo carattere, che diventerà poi caratteristica anche del suo agire storico. Ciano è diplomatico, segue la carriera diplomatica dopo che il padre gli ha proibito di seguire la carriera artistica, cosa molto interessante, dopo i fallimenti di qualche opera di teatro che mette in scena, il padre lo obbliga a fare qualcosa nella vita. E lui sceglie la carriera diplomatica, che si addice proprio a questo suo carattere estroverso, molto vanitoso, e poi in un certo senso con il matrimonio con Elda ritrova un altro padre ancora più autoritario. Il rapporto tra Ciano e Mussolini, anche quando Ciano salirà nella carriera e diventerà ministro degli esteri, sarà sempre di grande timore, rispetto. Nei diari Ciano chiama Mussolini il capo, lui con la L maiuscolo, fino a quando? Fino a quando cerca uno spazio suo, questa ambivalenza, questo desiderio di confrontarsi. Ciano sarà uno dei più grandi responsabili del disastro della politica estera italiana e sarà uno dei responsabili dell'entrata in guerra e non ha neanche tentato di opporsi a Mussolini, nonostante lui scriva sui diari, dica in confidenza agli amici: ah, questa scelta è sbagliata. Gli storici sono rimasti sempre sbigottiti di fronte a questa doppia faccia. Ciano è colui che firma il patto di acciaio e la sera confida ad un amico: ah, che disgrazia, abbiamo fatto proprio una cosa folle. Cioè, praticamente è l'atteggiamento del bambino che segue quello che gli dice il papà, però poi in privato cerca di distaccarsene. E, può essere letta anche in un altro modo: se andrà bene io sarò stato dalla parte giusta, se andrà male lo avevo detto. Ecco, questo aspetto di debolezza del carattere di Ciano viene fuori in queste pagine, secondo me, molto bene, in questi colloqui contraddittori in cui Ciano vuole dire una cosa, poi ne dice un'altra. Ecco, però io ora vorrei, come dire, fare la prima domanda importante, e cioè: perché hai scritto un romanzo su un soggetto di questo tipo? Allora, mi congratulo con il presentatore, perché ogni cosa che ha detto è di una precisione estrema, si sente lo storico, ogni parola che dicevi era molto, si vedeva che c'era dietro una precisa conoscenza del soggetto. Ecco, perché l'ho scritto? Non lo so, veramente è come... è una molla che scatta, ci si intestardisce su un determinato soggetto, spesso è un'idea vaga, si parte da un'idea molto, molto vaga, in questo caso un episodio storico preciso, però dire perché un'idea ci attira a quel modo sarei veramente, direi qualche cosa di non sincero se lo sapessi. So che mi attira. Io al fascismo mi sono avvicinato per scrivere un libro ispirato alla figura di mio padre, che si intitola Anatomia della battaglia. Mio padre, che era alpinista e fascista, è rimasto fascista anche dopo, e io per scrivere questo libro, che all'inizio voleva essere solo una, come dire, un racconto della malattia, delle ultime settimane della vita di mio padre, mi sono immerso nel fascismo mio malgrado, proprio il fascismo che mi ha attirato, e mi sono immerso nella lettura. Io che non ho una formazione storica, una formazione scientifica, e ho veramente capito tantissime cose di mio padre leggendo e studiando. Però, a dire la verità, poi per quel libro lì non è che ne abbia usate più di tanto tutti questi elementi che avevo incamerato. Però ecco, la vicenda di Ciano mi aveva colpito tantissimo, perché come dice Carlo è veramente una tragedia, è praticamente il padre che manda a morire il marito della figlia preferita, con la quale ha un legame fortissimo, o comunque non fa niente per impedire questa esecuzione. E poi la tragedia nella tragedia, appunto, Edda che fa di tutto per salvarlo, veramente si batte come una pantera, nonostante avessero precedentemente un legame abbastanza lasso. Di caso non ci sente là in fondo, se può. Ah, scusate, se la mia voce non è così. Ecco. E quindi veramente una tragedia greca, anche perché Ciano è molto intuitivo, no? È molto intuitivo, e fin dal primo giorno che è in prigione a Verona lui sa che morirà, che la sua permanenza in prigione finirà con l'esecuzione. E poi appunto si lascia convincere un po' da Edda, un po' da questa giovane spia che i tedeschi gli hanno affibbiato. Le due donne fanno molto diverse una dall'altra, fanno di tutto per salvarlo, si alleano perché Edda non può più accedere al carcere, mentre la ragazza sì, anzi passa di molte ore al giorno con Ciano, e fanno di tutto per salvarlo. Addirittura questa ragazza alla fine si inventa uno scambio che propone ai suoi superiori di, come dire, avere i diari di Ciano. I tedeschi erano molto interessati ai diari di Ciano perché temevano che ci fossero delle rivelazioni che potevano nuocerle, e quindi propone uno scambio, la libertà di Ciano in cambio dei manoscritti, dei diari. In realtà la cosa quasi va in porto, perché Himmler è d'accordo, in realtà, anche Kaltenbrunner, il numero uno dei servizi segreti, anche per delle ragioni, diciamo, di dissensi all'interno di diverse fazioni, diverse, no, del nazismo, i due Himmler e Kaltenbrunner vorrebbero eliminare il ministro degli esteri, no? Ma insomma, e comunque la cosa quasi va in porto. All'ultimo momento Hitler invece viene a conoscenza e blocca tutto. Lui odia assolutamente Ciano da anni, lo ritiene responsabile della propria disfatta, quasi per l'impegno che ha dovuto, come dire, per il fronte che si è aperto in Grecia quando l'Italia è entrata in guerra, indebolendo gli altri fronti. Ecco, quindi ecco, Ciano, per riassumere tutto, Ciano sa che morirà, e lì rivela dei lati del suo carattere, una profondità che non ha mai mostrato prima, come diceva Carlo, un essere superficiale, molto molto vanitoso, molto, però molto ambivalente, in realtà è molto molto difficile definirlo, perché anche molto intelligente, con degli spazi di lucidità. Lui all'inizio della guerra capisce che sarà una guerra lunga, capisce che finirà con gli americani a Roma, quindi veramente ha delle visioni, e nello stesso tempo è un punto superficialissimo, con questo legame assolutamente è soggiogato da Mussolini, come era stato soggiogato in gioventù dal padre, e non riesce a ribellarsi. Quindi è vero, sì, muore con dignità, perché le ultime settimane in prigione lui ha un atteggiamento molto degno nei confronti degli altri prigionieri, nei confronti dei carcerieri, nei confronti di questa ragazza anche. Però una vera dignità avrebbe voluto dire anche, come dire, assumere le proprie posizioni, dire sì, io il 25 luglio ho votato contro Mussolini, adesso mi prendo mie responsabilità, penso che l'Italia abbia bisogno di qualche cos'altro, il fascismo è finito. Invece lui no, si rimangia la propria posizione, no? Quindi rimane, lo dice anche Guerri nella sua bella biografia, dice un po' la stessa cosa, lui rimane un po' prigioniero del, del proprio infantilismo, della propria mancanza di visione a lungo termine, visione mancanza anche di preparazione storica, preparazione politica. E, ecco, quindi è vero, dignità, se sono, come dire, compariamo la sua morte con quella di Mussolini, travestito da tedesco, no? Che si fa prendere mentre scappa, no? È proprio la mancanza di dignità più totale. Lui invece guarda in faccia la morte e la affronta, però ecco, senza nemmeno saper prendere le distanze. Però appunto è un personaggio molto molto molto ambivalente, molto italiano per molti versi, e qui non si può pensare anche all'attualità, no? Questa assoluta mancanza di questa irresponsabilità più totale, no? di prendere delle decisioni importantissime per il paese pensando solo alle proprie voglie del momento, alle proprie è veramente, e nello stesso tempo però anche intelligente, anche fedele alle amicizie, anche generoso, però appunto nello stesso tempo anche implacabile, e quindi una personalità molto molto, però ecco, questa è la storia della verità. Queste cose poi ci sono due belle biografie di Ciano e si possono leggere, no? Questa è la storia che tutto sommato è già raccontata. Il mio è un lavoro tipo letterario, no? un riempire i buchi, i silenzi lasciati dalla storia, perché come dire, qualcosa c'è stato tra Ciano e questa giovane ragazza che ha subito, come dire, è caduta nelle maglie del grande seduttore quarantenne, esperto della vita, rimane assolutamente affascinata e quindi si innamora. Tutte le testimonianze sono d'accordo. Però cosa ci sia stato effettivamente nessuno lo sa, perché lei non ha più parlato, è morta 2 anni fa, questa donna, poi ha fatto la giornalista per tutta la vita in Germania, ma non ha mai parlato, anzi le uniche piccole interviste che ha rilasciato ha un po' rinnegato, ha parlato di simpatia più che di amore, no? E Ciano è morto, quindi i due testimoni sono non ci sono più, quindi però ecco, e quindi ho cercato di riempire un po' questo silenzio. La cosa incredibile è che nessuno scrittore italiano l'abbia affrontata, questa cosa è una cosa che mi può essere che secondo me tra un secolo, se non saremo già tutti, come dire, se il pianeta esisterà ancora, cioè è chiaro che nell'Italia del XX secolo sarà una delle poche cose che si ricorderanno, no? Perché talmente ha tutte le caratteristiche per rimanere veramente come una cosa. E invece non si è cimentato siciliano con una pièce teatrale, ma in realtà nessuno. Io ho provato a farlo con i miei metri, appunto, che come diceva Carlo sono sempre gli stessi, sono quelli degli altri miei romanzi, però anche con molta umiltà, perché appunto io non sono uno storico, quindi appunto non mi sono confrontato, ho cercato di documentarmi meglio che potevo, però appunto non è la mia materia. Ecco, due cose prima di sentire un altro brano. C'è anche un altro aspetto che qualche volta però viene fuori da queste pagine, e cioè questo momento come un momento che scatena odi, che scatena delle pulsioni, direi assassine, cioè il processo a Ciano e ai traditori, no? È corredato da uno spirito di odio, di resa dei conti, che forse ancora oggi è un tabù, come dire, nella coscienza del popolo italiano, cioè nel senso, è una delle pagine più tragiche, il periodo dal 43 al 45 è uno snodo fondamentale, e che si manifesta anche lì, no? Cioè nel senso, non è soltanto una parte contro l'altra, ma è una caccia al traditore che dalle tue pagine viene fuori molto, molto bene. Insomma, il pubblico che grida alla morte Ciano, alla fine dell'assemblea che costituisce il nuovo partito e tutto questo contorno di odi, insomma. Ecco, questo lo trovo moderno, una cosa che fa riflettere ancora oggi. Per questo ho pensato molto a questo collegamento che tu fai tra l'anatomia della battaglia e questo, cercando di vedere anche nella memoria, no? Di non so, tuo padre, praticamente, se non sbaglio, tu hai detto che hai scoperto solo dopo, vero, che tuo padre era tra il pubblico al processo, e questo, insomma, mi interessa molto come filo, ecco, se vuoi dire. Sì, quando ho finito di scrivere che mio padre, appunto, che c'è avuto una decina d'anni fa, e parlando con mio zio un po' più giovane di mio padre, ho saputo che mio padre e questo mio zio erano al processo di Verona, i due fascisti sfegatati, poi saranno repubblichini, no? E loro erano andati come molti, perché consideravano Ciano il traditore, no? Il responsabile della caduta del regime, però l'ho saputo dopo. E certo, verissimo quello che dici, appunto me ne sono occupato nell'altro romanzo, nell'anatomia della battaglia. Per me veramente gli anni 70 sono una riattivazione del conflitto, degli ultimi anni della guerra, no? con l'opposizione, questa estrema sinistra, no? E dall'altra parte le versioni di destra. Basta pensare alle Brigate Rosse, lo stesso nome Brigate Rosse, no? I legami. E adesso non voglio entrare, poi appunto io non sono uno specialista, le mie sono intuizioni sempre di romanziere, come dire, sono cascato in queste cose perché mi confronto con le realtà nelle mie narrazioni, però appunto è bene che ognuno faccia il suo mestiere, no? Quello che so fare io è narrare, no? Raccontare delle storie, non spiegare la storia. Però è chiarissimo, anche adesso vedo anche veramente di come la stampa si occupa del libro, è considerato un tema di destra parlare di Ciano, come dire. L'unità, che mi ha sempre trattato molto molto bene, ha fatto due righette dicendo il nuovo romanzo di quelli cosa su Ciano, no? Giustamente, perché è una cosa pazzesca dal punto di vista, no? Però sono ancora veramente dei tabù, delle divisioni, ma proprio non a caso questa cosa non è stata raccontata, perché probabilmente non c'era ancora la distanza. E sono passati quanti anni, quanti dovranno ancora passarne, e questo purtroppo è il dramma d'Italia, che è uscito dal fascismo senza aver fatto i conti, anche fare i conti a distanza, come l'ha fatto la Germania. In fondo la Germania l'ha fatto una generazione dopo, no? I veri sì, ci sono stati processi anche prima, però è la generazione seguente che ha chiesto ai genitori come avete potuto fare questa cosa, no? Come avete potuto. E questo è stato importantissimo, anche proprio anche i processi che si sono riaperti, e l'Italia questo non l'ha fatto, questa amnistia così veloce, è stato veramente un'onda. Solo un esempio, no? Il superiore Aster, no? il colonnello che era il superiore di questa ragazza, che è responsabile, lui aveva organizzato le raffle degli ebrei in Olanda, no? le retate in Olanda, poi inviato a Verona, dove ha organizzato tutte le retate in Italia, e poi si è occupato della lotta alla resistenza delle rappresaglie. L'Italia non ha mai chiesto la tradizione di questa persona, è una cosa veramente, cioè 8.000 ebrei italiani sono morti nei campi di concentramento, sono 8.000, e se senza questo non è che mandare in prigione le persone, non so come dire, però è importantissimo l'atto simbolico, è importantissimo il processo, è importantissimo chiedere tradizione, no? Più che poi, ed è chiaro che non è certo mettendo in prigione una persona che, però è importantissimo veramente l'atto, e questo non è stato fatto, e quindi io credo anche questo, io parlo veramente non sono un professionista della storia, però mi sembra che veramente gli effetti si vedano proprio nella stessa mancanza di senso democrazia nostro, no? Attuale, si vede tutti i giorni. Ma appunto questi sono, come dire, sono discorsi che vanno un po' al di là del libro. Bene, passiamo a un altro brano. Vuoi leggere col microfono o senza? Se vuoi leggere benissimo. Sì, leggi senza. Hai una bella voce forte. 6 gennaio 1944. Per qualche minuto non riesce a smettere di tossire. Ha molto freddo e tossisce. Sono accessi di tosse che nascono in profondità e le strappano la trachea, impedendole di respirare, facendola piangere. Nel corso della notte si è svegliata diverse volte boccheggiando, senza un filo d'aria nei polmoni. A due riprese ha vomitato, da quanto le convulsioni erano violente. La valanga di ghiaccio che l'ha seppellita al mattino leggendo il telegramma non l'aveva però ancora travolta. Ora è prigioniera del ghiaccio. Ciano le dice che è molto pallida, ha delle occhiaie che fanno paura. La fa sedere sul letto, ne massaggia la schiena. Deve cercare di rendere più regolare la respirazione, le dice. È il modo migliore per calmarsi. È diventato ancora più impressionabile. È per questo che non smette di parlare. La sua pelle non è più una barriera in grado di proteggerlo. La sua pelle è una membrana permeabile a qualsiasi emozione. Fa di tutto per mostrarsi calmo, ma i suoi occhi cercano risposte, implorano di essere rassicurati. Nel suo sguardo c'è l'angoscia. Versa dell'acqua nella padellina e la mette sulla stufa. Lo faccio molto leggero, dice. Molto leggero. Quando le passa la gamella di latta, Felicitas la fa cadere. Lui la riempie di nuovo. Lei versa ancora i tre quarti del contenuto. Le sue mani tremano troppo per permetterle di stringere la tazza. Ciano la fa allora bere imboccandola con il cucchiaino. Devi assolutamente curarti e restare al caldo, le dice. Non si può scherzare con queste cose, nemmeno se sei giovani. I polmoni, sono i polmoni, dice, massaggiandosi il torace. Felicitas ha l'impressione che quella voce le arrivi dalla cella accanto. Quelle parole le fanno un bene immenso, ma sono troppo lontane, troppo flebili. La sua gola è congestionata, non lascia passare l'aria, non abbastanza. Sente che sta per soffocare. Vorrebbe riuscire a dire quello che deve dirgli, ma non ne ha la forza. Carezzandole il viso, Ciano le dice che gli fa male al cuore vederla in quello stato. È per lui che ha fatto quel terribile viaggio a Roma, quindi è colpa sua se si è ammalata. Solo sua. Ha nostalgia dei suoi sorrisi, quei sorrisi capaci di fondere il ghiaccio e di squagliare anche le pietre. Darebbe 5 anni di vita per avere uno di quei bellissimi sorrisi. Senza i suoi sorrisi sarebbe già morto in quella sordida prigione. I suoi sorrisi sono un dono del cielo. Lei vede il collo di Kurt, vede la sua nuca larga e molto dritta, i capelli di platino, i nodi di muscoli attorno alle spalle. Vede la ferita al torace, vede la carne dilaniata dalla granata, vede il viso sofferente, lo sguardo di uomo che muore. Ora è morto. Il telegramma dice che è morto. È colpa mia se non sorridi più, lo so bene, dice Ciano, grattandosi i capelli sporchi e arruffati. Ti ho rubato i tuoi sorrisi. È a questo punto che Felicitas riesce a dire che lo scambio avverrà alle 9:30 di sera dell'indomani, al paracarro del 10° chilometro della statale per Brescia. Ma è uno sforzo enorme. E soprattutto fa fatica a credere che siano davvero le sue parole. Non riconosce più la grana della propria voce. Il marchese Pucci e Edda porteranno una parte del diario e un inviato del capo la prenderà in consegna, aggiunge dopo un accesso più lungo dei precedenti. Il resto degli scritti ti verrà consegnato quando lui sarà sano e salvo in Turchia. I due miliziani danesi sono arrivati, sono pronti a passare all'azione. Lo libereranno nel pomeriggio e la sera lo condurranno all'appuntamento. Tutto si svolgerà secondo i piani. Presto sarà libero. Felicità si è sollevata. La sua bocca è riuscita a esprimere quello che doveva comunicargli. Ha portato a termine la sua missione. Non sono però dei veri pensieri. È diventato troppo difficile, troppo pericoloso pensare. Ogni pensiero sfocia sull'immagine di Kurt. Una visione che provoca una tempesta nella sua testa e le comprime la gola. Resta allora aggrappata agli aspetti pratici dello scambio. Come una persona sospesa sopra un precipizio, si limita a non mollare la presa. Ciano si sfrega le mani e nel contempo stringe le mascelle, espirando l'aria dal naso. Se ho ben capito, un aereo mi porterà in Ungheria il giorno stesso dell'inizio del processo, domanda con il tono di chi già conosce la risposta. Ma ha bisogno di una conferma. Ha ripreso coraggio. Pensa che tra non molto sarà libero. Vorrebbe che lei condividesse la sua eccitazione. Sì, anche l'aereo è pronto, risponde lei. Mentre le parole le escono, vede il cadavere di Kurt. Questa volta non sono vaneggiamenti. Il telegramma dice che è morto. È quasi un mese che non vedo Edda, dice Ciano, con un sorriso che scopre tutta l'arcata dei suoi denti bianchissimi. Una parte del cervello di Felicitas registra quella frase. Qualcosa in fondo al suo corpo sanguina a causa di queste parole. Ma la sua mente è paralizzata. Scusa, tutto ciò è veritiero, in realtà qui siamo appunto gli ultimi giorni prima del processo, quando lo scambio di cui parlavo sembra funzionare, e da tutte le testimonianze sembra veramente che la cosa si sia svolta così. Io ho anticipato la morte del marito Kurt, che in realtà è morto dopo quello, qualche libertà me la sono presa, però diciamo, per tutto quanto riguarda Ciano, ho cercato di essere il più fedele possibile. Sì, un'altra cosa che rende Ciano il protagonista ideale di un romanzo è questa altalena di speranze e poi decisioni sbagliate, cioè praticamente sembra che in fondo si infili lui per una serie di circostanze in un tunnel che lo porta poi alla morte. E pensiamo soltanto al momento da cui poi nasce la sua tragedia, cioè l'aver messo la sua firma in fondo a quell'ordine del giorno che il Gran Consiglio vota il 25 luglio, nella notte tra il 24 e il 25. E tutte le persone che hanno poi dato la propria testimonianza hanno detto come Grandi stesso dicesse a Ciano no, non mettere la tua firma, cioè tutti erano consapevoli del fatto che lui nel suo ruolo di genero della luce e diciamo quindi insomma anche per tutta la sua carriera poteva tranquillamente starsene a guardare, e lì prevale in Ciano invece questo orgoglio di dimostrare no, che lui vuole fare qualcosa e torna, è interessantissimo, nel periodo 43 tornano i riferimenti al padre Costanzo, che era morto nella 39, cioè praticamente Ciano più volte in qualche lettera cita il coraggio del padre. Qui adesso sembra che voglia imitare il coraggio del padre. Poi però, capovolgimento, quando crolla il fascismo, Ciano avrebbe molte possibilità di mettersi in salvo, lo fanno in tantissimi gerarchi, e qui c'è Edda che compie una stupidaggine, si rivolge ai tedeschi temendo che Ciano possa rimanere vittima dei torbidi, insomma della situazione pericolosa, e chiede aiuto ai tedeschi per avere un aereo che li possa portare in Spagna. I tedeschi chiaramente dicono sì, ma poi li trattengono in Germania. E questo spiega anche perché Edda provi una sorta di come dire rimorso, di praticamente si sente responsabile del fatto che Ciano sia stato catturato, e quindi non si dà pace, cerca ogni modo proprio per questo scambio, ad esempio, dei diari. È un tentativo serio, concreto, che viene portato fino ai livelli massimi. Mussolini un pochino li temeva perché c'era la dimostrazione che insieme a Ciano avevano combinato un disastro attaccando la Grecia. Quindi sarebbe venuto fuori insomma un pochino il pasticcio. i tedeschi erano curiosi perché non sapevano quello che c'hanno, che sospettavano di essere, come dire, di essere stato uno che tramava alle spalle. Comunque, insomma, questo tentativo è concreto, dà delle speranze. Allo stesso tempo, Ciano al processo si comporta in modo strano, ambiguo, fa un elogio di Mussolini, proclama appunto la sua innocenza, in un certo senso si rimette nelle mani della figura del capo padre. E poi un'altra altalena che veramente nel libro è resa con grande efficacia nella finale è effettivamente questa attesa della grazia, cioè è uno dei pochi, delle esecuzioni, delle pochissimi casi di fucilazioni avvenute non all'alba ma al giorno, diciamo, protratto. In effetti per qualche ora si convinsero che c'era stato qualcosa e il libro si chiude proprio sul suono di stivali che salgono sulle scale della carcere e pongono fine quindi a questa speranza. Sì, ecco, tutto si può dire su Ciano, però il coraggio non si può. Lui è un uomo coraggioso, e lo dimostra in moltissimi episodi. Il 25 luglio vota contro perché ci crede e si assume le proprie responsabilità, diciamo, e perché poi non rimane su questa posizione? Non perché gli manchi il coraggio, veramente non è un problema di coraggio, è proprio una mancanza di maturità e di, come dire, lui non concepisce una posizione distinta da quella di Mussolini, diciamo, è una mancanza quindi non dell'ordine del coraggio, è qualcosa d'altro che gli manca. E questo, quello che è certo è che le posizioni altalenanti, ma questo da sempre, chiunque l'abbia conosciuto lo dice, che poi su Ciano è stato scritto tantissimo, perché tutti quelli che l'hanno conosciuto, anche proprio perché era una figura, come dire, era il numero due del fascismo ed era la Lady Di del tempo, no? Che faceva le copertine dei grandi giornali internazionali, no? E quindi era veramente una coppia. E quindi, come dire, moltissime hanno scritto su Ciano e tutti sono d'accordo, tutti sottolineano la grande ambivalenza e la contraddittorietà, no, di Galeazzo Ciano. Ecco, però, diciamo, ma io credo che tutti noi siamo altalenanti, no? Dopo facciamo finta di essere, come dire, di avere delle posizioni che sono no, univoche, eccetera, però in realtà è proprio la nostra condizione di essere umano che è estremamente altalenante. Diciamo, tutti i miei personaggi, anche negli altri libri, corrono sempre dietro a una ricerca di equilibrio, una ricerca di verità, però sempre appunto altalenando tra posizioni diverse. E proprio a posteriori si può dire che forse appunto questo carattere così esageratamente altalenante di Ciano mi attirava proprio per questo motivo, no? Perché è la vita che è così, no? Non siamo mai sicuri di quello che facciamo, stiamo lì a dire sarà così, sarà colà, ci lanciamo, poi ci pentiamo, no? No, c'è qualcuno che ha la fortuna di non forse volare, però in realtà la maggior parte delle persone, anzi, proprio più si è riflessivi e più si, no? E qui quindi ecco, direi quindi una tragedia vissuta appunto con questa grande fragilità. Ciano è un personaggio estremamente, estremamente fragile e è un camaleonte, perché anche l'eleganza di Ciano, no? È un personaggio molto, molto elegante, però l'eleganza lui l'ha scoperta quando è entrato nella carriera diplomatica. Lì prima aveva, come dire, un vestito di bohemien, non proprio bohemien, ma insomma di ha cercato, come ti dicevi, di scrivere delle opere teatrali nell'ambiente giornalistico di Roma, e quindi invece poi si trasforma quando entra e fa un concorso, lo vince, e poi sarà mandato in Cina ad Andranked, e lì sì, la prima metamorfosi. E poi la seconda metamorfosi dopo il matrimonio con Edda, che in realtà il matrimonio con Edda, come dire, è organizzato dalla famiglia Mussolini, i Mussolini sono assolutamente spaventatissimi, e prima di tutti Benito da questa figlia diciottenne che ne combina tutti i colori e vogliono accasarla con qualcuno, e dopo vari tentativi la scelta cade su Ciano, che non a caso appunto è figlio di Ciano, eroe della prima guerra mondiale, ministro e fedelissimo Mussolini. In realtà il loro amore nasce così, poi c'è un rispetto, non è che sia la cosa funziona, diciamo, però è un matrimonio arrangiato in qualche maniera. Quindi e lì Ciano assolutamente si innamora di Mussolini, che rimane assolutamente folgorato, diventa fascista, come mai è stato fascista, si inventa un passato di squadrista, che ormai, per cui gli squadristi lo odieranno per tutta la vita, e in realtà diventa un fascista sfegatato, quando lui era in realtà un ragazzo, un uomo di destra, un moderato, con anche attratto con attrazione per i paesi anglosassoni, no? E quindi è appunto un camaleonte, però anche questo è un carattere molto italiano, anche questo un po' mi attirava, no? Che c'hanno un po' tutti i difetti dell'italiano che ritroviamo adesso nei governanti di adesso, no? Ecco. Sì, un'osservazione proprio dell'odio verso Ciano, che in un certo senso esplode, no? Dopo il 25 luglio, perché Ciano rappresenta quella dimensione di un, come dire, un fascismo borghese, un fascismo lontano dalla, come dire, dal popolo, dall'aspetto più militare intanto, e quindi praticamente proprio quando invece Mussolini richiama in vita, resuscita un fascismo delle origini, proletario, un fascismo che deve fare i conti con il capitale, con la borghesia che ha tradito, con la monarchia, Ciano è il bersaglio preferito. In quei mesi sulla stampa, insomma, il tema dominante era i gerarchi che durante il ventennio si erano arricchiti, no? Scoveremo queste ricchezze. E quindi Ciano in un certo senso diventa un po' il capro espiatorio di tutto questo. Quindi questo aumenta il suo carattere tragico. Ci sono delle domande, diciamo, da parte del pubblico, degli aspetti che... Ci sono tantissimi argomenti, punti, sì. Spunti, è una cosa... È una delle... Sì. Qualcuno pensa a una domanda. In realtà, come diceva Carlo, lui avrebbe potuto scappare in agosto, dopo il 25 luglio, sono a Roma e lui con i figli non sanno cosa fare. Lui potrebbe andare in Spagna, e anche lì questo va detto al suo onore. Lui non va perché non vuole lasciare la famiglia, che se lui fosse andato e nessuno avrebbe tolto un capello ad Edda, come è successo, e ai figli, la cosa si sarebbe risolta lì. Invece lui assolutamente no, vuole andare con tutta la famiglia, molto attaccato alla famiglia, al senso della famiglia, no? E quindi non sceglie di rimanere, e lì cominciano i suoi guai. Thank you. adesso lasciamo un po' di spazio per le domande, sì. Adesso non so se qualcuno cosa, altrimenti comunico i nostri prossimi appuntamenti. Una piccola curiosità riguardo ai figli. I figli hanno mai espresso dei commenti, delle opinioni, i loro sentimenti in questo periodo? Erano abbastanza grandi da avere una visione, diciamo, critica a sufficienza per valutare ciò che era successo? Erano piccoli. Il più grande aveva 13 anni. Per cui loro praticamente sono stati fatti scappare tramite la Svizzera, cioè attraverso la Svizzera, e diciamo quello che hanno scritto in seguito praticamente non ha aggiunto nulla, perché loro erano troppo piccoli per aver, come dire, elaborato a quell'epoca. Chiaramente anche loro sono figure tragiche, perché in un certo senso si sono trovati in mezzo a cose che non capivano, che non totalmente... È più intelligente, più... era molto piccolo Marzio, non a caso era nato a guerra cominciata, di lì il nome Marzio, e che poverino ha finito molto male, alcolizzato, morto giovane. Era una persona molto molto brillante, molto molto intelligente. E Fabrizio, il figlio maggiore, lui ha scritto, perché si ricordava, e si ricordava soprattutto come Edda ha annunciato la morte. Edda di una brutalità assolutamente, e questa brutalità l'aveva con i figli, identica, come ha annunciato la morte del padre, per esempio, ai figli in Svizzera. Però effettivamente non, adesso sono tutti e tre, tre morti. Un'altra cosa interessantissima mi viene in mente ora è il rapporto tra Edda e la famosa Frau Betz, che non è di straordinaria alleanza e collaborazione, e questo, come dire, rompe ogni schema della gelosia o di possibili, perché anzi Frau Betz ha una piccola parte, cioè collabora a far scappare Edda, e questa cosa dei diari è concertata, lavorano insieme, quindi la moglie e l'amante collaborano proprio per mettere in atto questo piano. Quindi questo è un aspetto psicologico che nel libro è ben messo. Ed era abituatissima ai tradimenti del marito, e quindi ha un cinismo, però effettivamente le due donne, diversissime come età e formazione, fanno di tutto, si alleano e si combattono insieme, ognuna sul suo settore, per tirare fuori Ciano dalla prigione. Il Ciano aveva dei fortissimi rapporti con Mussolini, da quello che io ho letto sempre. Non è che ci fosse un rapporto idilliaco, anche proprio sul piano politico. C'era spesso degli scontri furiosi, stando quello che ho letto. No, era proprio questo doppia faccia. Sì. Allora, praticamente Ciano è stato, in un certo senso, fatto ministro degli esteri da Mussolini, proprio perché era fedelissimo, e anzi era un braccio destro, un portavoce. Ciano nei suoi diari, a partire dal 39, cioè quando l'alleanza con la Germania progredisce, incomincia a fare delle critiche, cioè si accorge che Mussolini non è così infallibile, e lì abbiamo alcune tracce, cioè tipo alcuni colloqui che ha con persone, eccetera, eccetera. Però da un punto di vista della forma, Ciano ha sempre subito l'autorità di Mussolini. Sì, sì. Per cui grandi scontri non ce ne sono stati. Non è stato anche ambasciatore in Cina? Questo prima, lui aveva cominciato la carriera diplomatica prima di sposarsi. Ah, ecco, punto, sì, poi sì. Sposato con Edda, vanno in Cina assieme, poi tornano e diventerà ministro della propaganda, sì, prima sì, ministero sì, ancora all'inizio non c'è, sì, e poi ministro degli esteri a 33 anni, anche proprio anche. Perché Mussolini, che fino a quel momento ha tenuto a sé la carica di ministro degli esteri, no? E, crea questo ministro proprio perché pensa di poterlo, poterlo controllare fino alla fine. Quotidianamente Mussolini riceve Ciano e lui è in piedi sull'attenti, ma ogni giorno è il genere, e lo riceve in piedi, non ha mai fatto sedere, no? Quindi le distanze le mantenute e lo dice tutto. E poi proprio Ciano non ha il coraggio, non ha la statura per affrontare Mussolini. È un grande animale politico, molto intelligente, molto, si può dire tutto, però Ciano assolutamente è soggiogato psicologicamente, e poi è veramente uno scalino, sì, uno scalino sì, sotto. Sì, sì. Quindi anche quando non è più d'accordo non osa contrapporsi apertamente, c'ha questa rabbia che monta, sì, e però nello stesso tempo lo asseconda Mussolini, quindi crea delle situazioni, parla male di Mussolini addirittura agli altri ambasciatori, a guerra già cominciata, ambasciatori inglesi, cioè tutto un pasticcio. E poi nel 1943 Mussolini pratica gli toglie il ministero e lo manda come ambasciatore presso il Papa, presso la Santa Sede. Sì, quando è venuta l'esecuzione, esattamente, quando è venuta? L'esecuzione. L'11 gennaio 1944. 44. Lui, l'Italia chiede l'estradizione, come dire, segretario del Partito Fascista è diventato Pavolini, anche lì è una tragedia, perché Pavolini è amico di Ciano fin dall'inizio e deve tutto a Ciano. Anche tutta la sua carriera all'interno del fascismo è dovuta, e anzi l'ha difeso nei confronti di Mussolini, che in due momenti si era arrabbiato con Pavolini, e l'amico di sempre si vendica della propria superiorità. Pavolini è più intelligente di Ciano, più dotato, e si vendica, e lui che manovra tutto il processo, è lui che chiede l'estradizione. Questo succede in ottobre e la cosa va avanti fino all'11 gennaio, ma è Pavolini stesso che la notte precedente all'esecuzione fa di tutto perché la domanda di grazia non arrivi a Mussolini, perché Mussolini sarebbe trovato in difficoltà. Quindi ha cercato qualcuno che la fermasse, finalmente l'hanno trovato, e non è arrivata la domanda di grazia. Mussolini non ha mai ricevuto questa domanda di grazia. Non ha mai ricevuto, proprio perché hanno impedito che la ricevesse. E Ciano anche lì si mostra degno, lui non vuole firmare la domanda di grazia, però visto che non firmando l'avrebbe compromesso anche i compagni di carcere, finisce per amicizia, diciamo, a firmarla, però non avrebbe voluto firmarla, sa che è tutto inutile. E un'altra questione è: se gli fosse arrivata questa domanda di grazia, Mussolini avrebbe avuto l'autorità di accettare o che... Sì. L'autorità come forma sì, però non avrebbe avuto il momento, cioè ormai la decisione era presa. Era prigioniero dei tedeschi. Completamente i margini erano. I tedeschi, veramente Hitler voleva che Ciano morisse. Sì. Un altro aspetto tragico è quello che hai accennato adesso, e cioè il rapporto di Ciano con amici che erano cresciuti con lui. Spesso anche, tipo hai citato sì, Pavolini, spesso con ambizioni proprio di poeti, letterarie, Pavolini stesso si trovava con Ciano nei caffè letterari insieme ad Ungaretti, cioè praticamente i primi anni erano di aspiranti intellettuali, il loro sogno era quello di essere scrittori. E Pavolini era dotato? Era dotato anche, sì, sì, sì. Oppure Anfuso, che poi sarà l'ambasciatore italiano a Berlino, che doveva tantissimo a Ciano, eppure si mostrano nei suoi confronti cioè gli voltano le spalle. Nessuno dice una parola, anche nel processo, ecco, il processo che si svolge a Verona, bisognerebbe veramente, cioè praticamente è l'immagine di quello che è un processo di Stato, cioè nel senso non, un processo che comincia già con la condanna scritta. E questi testi che vengono e dicono, insomma, che accettano già quello che la giudice vuole fargli dire, no? Ecco, queste cose ricorda i processi delle purghe staliniane, dove i condannati devono addirittura devono fare un elogio al dittatore per salvare le famiglie, per pensare, insomma, quindi praticamente è stato anche da un punto di vista giuridico un mostro, no? Nel senso che non c'era nessuna accusa reale. Questi avevano messo la loro firma sotto un ordine del giorno e quindi esercitando il diritto di essere membri del Consiglio. E cioè, poi praticamente il Gran Consiglio aveva solo una funzione consultiva, esatto, e qui invece vengono accusati di avere tradito l'ideale che sui codici non esisteva. Però nella legge istitutiva retroattivamente viene inserito, esatto. Insomma, la sentenza è un capolavoro di menzogne, insomma, di pensiero proprio. Ma insomma, quello che è successo nel Gran Consiglio allora era tutta una proforma. Era chiaro che si doveva fare quello che voleva Mussolini, perché se hanno votato con... il Consiglio era siete pro. C'erano quelli che erano pro, quelli contro, esatto. Però quelli che hanno firmato contro sono stati fucilati, quindi il Gran Consiglio era profondo. Esatto, furono accusati di aver fatto quell'ordine del giorno in collaborazione con una congiura con la monarchia per destituire Mussolini, e da un punto di vista giuridico loro avevano semplicemente esercitato il loro voto, quindi non... In realtà il regime che scadeva, perché l'Italia e gli alleati erano sbarcati in Sicilia, Roma era stata bombardata, l'Italia era fame, e quindi ormai era il regime che era alla disfatta, e soprattutto il comportamento di Mussolini stesso quella notte è interessante. Mussolini per la prima volta non riassume e conclude questo consiglio, ma lascia che si voti e non dice nulla. Praticamente sembrava quasi, questo dicono, che accettasse di essere, consiglio che non riuniva, esatto, già da anni, esatto. E ricade nella stessa depressione del dopo omicidio Matteotti. Perché il Mussolini era anche depresso nei suoi momenti, e lì poi l'aveva tirato fuori la Sarfatti, era riuscito poi a imporsi, a prendere responsabilità, però ci sono stati dei momenti molto... Lui stesso si reca dal re il giorno dopo con questo ordine quando la moglie gli dice no, arrestali tutti, no? e invece lui sa, anche lì non è idiota, forse lì non si può dire che sia idiota, e sa che la cosa è... Ma a parte il consiglio, poi gli è stato fatto un processo a questi, anche De Bono e tanti altri furono fucilati, no? È stato fatto un processo a questa gente. A quelli che li hanno condannati? Sì, sì, a Ciano stesso. Quelli che hanno condannato. C'è stato un processo. Certo, sì, sì. Avevano diritto fino a un avvocato. Sì, anche se non ne trovavano. Non si trovavano. Ne trovavano pochi, per cui erano avvocati di un avvocato, una scena molto anche comica, e durante questo processo tragico c'erano delle risate, perché questo avvocato di Ciano non si era trovato nessun avvocato disponibile. tutti malatissimi, proprio italiani anche. E questo d'ufficio sparava fuori delle cazzolerie talmente grandi che in questa atmosfera assolutamente tragica, e Ciano stesso e tutta la corte smettevano di ridere. Ho visto un bel film tempo fa che parlava della Germania parlava di studenti che si erano, avevano fatto dei volantini all'Università a Monaco, e poi sono stati presi, e una di queste, che era una ragazza mi pare, che finì davanti al giudice, avrebbe potuto discolparsi, il giudice aveva fatto tutto quello che poteva per salvarla, e se voleva, lei, se avesse voluto, si sarebbe salvata, eravamo in pieno resiste nel regime nazionalsocialista, eppure vede che lì c'era il processo, e lì si sarebbe salvata questa ragazza. Per quanto grave fosse stata la cosa, perché poi li hanno condannati a morte. No, erano processi in cui veramente c'era poco da fare, insomma, o veniva un atto di clemenza. Si vede in questo film in cui questa ragazza di fronte al giudice, che poi in fondo l'aveva, quasi si era impietosito di lei, no? Se avesse voluto il giudice la riusciva, diciamo, quantomeno a evitare la condanna a morte in prigione. In prigione, questo sì, capitava. Non li hanno impiccati neanche. Infatti uno del processo è stato, la pena gli è stata commutata perché ritenuta la sua collaborazione non, cioè si era pentito, aveva poi scritto a Mussolini, quindi praticamente sì. Ma poi i veri responsabili grandi non c'era, era scappato in Portogallo, no? I veri responsabili, a cominciare da Grandi, che era stata la mente di tutto, erano scappati, erano. E i famosi diari dove sono? Chi li ha? Sono pubblicati. Sono diari che vanno dal 37 al febbraio 43 e sono molto interessanti perché proprio registrano quasi giorno per giorno i suoi colloqui con Mussolini, e quindi si può dare uno sguardo dentro la politica estera italiana di quegli anni e anche i dubbi, i controdubbi, in cui era specialista Ciano. Cioè, poi, in un certo senso non sono dei diari privati, perché in realtà sono dei resoconti molto precisi di tutti gli incontri, di tutti i colloqui, e per certi versi sono quasi un diario di Mussolini, perché Mussolini sa che il genero di diario e dice scrivi quell'altro, no? e quindi c'ha questa responsabilità di, però appunto se uno cerca qualcosa sull'intimità di Ciano, lui sa che verranno pubblicati mentre li scrive, e quindi assolutamente, e lui è anche molto vanitoso, crede di essere un grande uomo, pensa che sarà ricordato come un grande uomo, invece non verrà ricordato per la sua tragedia più che per la sua statura politica, e quindi diciamo non si trova Ciano intimo, no? Si trova Ciano ministro. Io ho una domanda, mi incuriosiva la scelta del titolo. Ma appunto per me i paesaggi sono, abbiamo parlato molto poco dello stile, però lo stile per me è fondamentale, per me è tutto, diciamo. Non leggo volentieri, per esempio, perché il ritmo della frase per me è fondamentale, no? Le mie frasi sono frasi di solito abbastanza lunghe, con una sola virgola in mezzo, o anche un due punti. È un ritmo irriproducibile nella frase, nella lettura orale, e che per me è assolutamente importantissimo. Ho litigato anche con la traduttrice francese e siamo riusciti a farlo in francese, che è una lingua molto rigida, ha funzionato, è una cosa incredibile, e funziona questo ritmo, e c'è uno stacco di come dire, un calando nella seconda parte della frase, per me è abbastanza fondamentale. Questo io non posso leggerlo come vorrei, perché la lettura è sempre un'interpretazione, no? La tua è diversa da e io le leggo in realtà come se fosse una poesia, leggo perché, come dire, per le mie frasi sono molto lavorate, si possono leggere anche, io leggo molto lentamente, come se, quindi una lettura completamente diversa, è già un passo diverso da quello della scrittura, che avete capito, il mio ritmo nella scrittura non riesco a... Questo per dire che per me la frase è molto importante, e anche i paesaggi, no? E quello che volevo creare, questo clima molto fosco della Verona del 43, è stato un inverno molto molto freddo, l'Italia bombardata, affamata, e questo è l'Adige ghiacciato, no? E la mancanza volevo appunto questo nero, appunto, che poi è anche una metafora del fascismo e tutto, però era anche una condizione meteorologica, il lago di Garda, no? Anche quello con l'umidità, col freddo. No, e quindi, però ecco, mi sono molto controllato, in realtà quelle parti io le scrivevo con molto piacere e con facilità, queste parti riguardo il paesaggio, no? Però non volevo che diventasse un'epopea, no? come dire, per me bisognava che la tragedia rimanesse tragedia, quindi mi sono molto controllato e ho fatto molta fatica, perché sennò si passa subito in qualche cosa, come dire, dove c'è un'adesione inconscia, no? Io volevo rimanere assolutamente, lasciare la tragedia nella sua nudità, e quindi ho messo sotto pochi i paesaggi, però per me sono fondamentali. Ce ne sono due di particolari. Uno è quello di cui avevo parlato prima, la neve che cade, molto, molto bella quella pagina, e poi l'Adige, il ghiaccio sull'Adige, e direi che cielo nero si sta proprio bene. Scusi, un'altra domanda fuori tema, però. E lei ha scritto quel libro Sacrificio, mi pare, no? Che l'ho letto ultimamente, era stato rappresentato qui 2 anni fa, no? Il lago e la Val Fredda hanno una collocazione geografica veritiera oppure è su elezione? No, potrebbe essere nelle Alpi, in qualsiasi posto. Sì, non è un lago del Trentino. Non è un lago del Trentino. No, perché... sì, potrebbe, sì. Lei è Trentino di nascita. Sì, no, è chiaro. I Santori sono... Pensavo quello, però potrebbe essere... Anche quello è un bel libro, un po' tosto, quella cosa, Grazie.